Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È il secondo giorno di Eclettica in una settimana che, contrariamente rispetto al solito, non ne vedrà 5, ma solo 4. Infatti venerdì è il 25 aprile, è un festivo e quindi io, come le altre voci di Rock FM, non sarò presente su queste frequenze nel mio solito orario 19:20. E se poi vi vengono attacchi di nostalgia, potete sempre attaccarvi al podcasting. Vi ricordo, i dettagli sono su myspace.com/eclettica. E a proposito di indirizzi internet, vi ricordo quello nuovo, nuovissimo, quello per il futuro: www.rockfamily.it. Si chiamava Charlie. Lo sapevo perché l'avevo sentito dire dalla ragazza grassa alla cassa. Quella brutta, ma simpatica. La classica tipa che ti capita in un'uscita a quattro, quando il tuo amico ha bisogno di una spalla per conquistare la carina delle due, e tu sei costretto a parlare con quella simpatica tutta la notte. Lo so perché mi è capitato. Le ragazze brutte sanno essere ottime amiche. La prima volta che ero entrato in quel negozio avevo circa 13 anni. Ne ero uscito con London Calling, seconda ristampa, condizioni di copertina pessime. Me lo aveva dato il tipo che allora lavorava lì, un ragazzo tutto tatuato col piercing al naso e i capelli sporchi, dicendomi di non fare storie. Non ero un gran compratore di musica, in realtà. Mi piaceva leggere. Da quando avevo 17 anni, ho iniziato a lavorare alla libreria d'antiquariato della signora Grace. 5 pound al giorno, tutto il giorno. Non so se ne valesse la pena o meno, ma immagino avrei accettato anche senza compenso. Adoravo quel lavoro. Questo era ancora... Dove sei, Charlie? Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. I don't think it's fair. I'll tell you what's fair, what's not. Leave me! Tell those assholes to shut up. Hey, shut up, you asshole! Thank you. Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM, per ora. Per ora sulle frequenze di Rock FM, poi Eclettica è destinata a proseguire, anche perché, non so se tutti lo sapete, ma Eclettica esisteva già prima di arrivare nel 1994 su queste frequenze, quindi il suo destino è nato prima di quello di Rock FM e mi auguro fortemente che prosegua anche dopo quello di Rock FM. Giulio Caperdoni, raggiungibile a due indirizzi di mail, uno valido ancora per poche settimane, purtroppo, giulio@radiorockfm.com, l'altro pensato per il futuro, giulio@rockfamily.it, come tutte le altre voci di questa radio. Ci siamo ascoltati due pezzi fino ad ora in questo volume numero 2 della settimana, quello che si è appena chiuso della band Umbra di nome TV Lumière, Mondanità è il titolo della canzone, prima ancora dagli Stati Uniti Bridges and Power Lines con Uncalibrated. Ora invece la volta della Svezia, è il perro del mar, vi assicuro che è svedese. Lei in effetti è Sara Hasbring, il perro del mar è semplicemente il suo alter ego, artista che proviene da Göteborg e che ha cominciato a pubblicare prima in Scandinavia, il 27 di febbraio, l'album From the Valley to the Stars, che poi è stato pubblicato negli Stati Uniti il 22 di aprile, quindi proprio in questi giorni, verrà pubblicato nel mese di maggio in Inghilterra e poi mano a mano anche in altre nazioni come Australia, Nuova Zelanda, e sono sicuro che si allargherà il ventaglio di nazioni in cui verrà effettivamente pubblicato il disco di El Perro del Mar. Una canzone il cui inizio probabilmente anche alle scuole medie, l'unica volta in vita mia in cui ho suonato uno strumento, sarei riuscito a fare con il flauto dolce. C'è che poi, tornando a casa, dovevo per forza passare per la stradina della Rough Records. Una volta tornavo a casa nascondendo sotto la giacca l'edizione originale di una raccolta di Ferlinghetti, del 58. La nascondevo come per proteggere un neonato sotto la giacca. In realtà, pioveva. In realtà era solo per guardarla meglio, a casa. Sussurrare piano quelle parole di Zucchero Filato di Coney Island tra le pareti della mia stanza. Poi lo avrei riportato senza una piega al suo posto, sullo scaffale accanto a Ginsberg. Il tempo era relativamente bello, così relativamente che si mise a piovere a scroscio, gocce d'acqua come sassi. Era questa Londra, capitale del relativismo meteorologico. Allora mi fermai alla lavanderia per trovare rifugio, ma era chiusa. Solo dai vetri rigati dalla pioggia si intravedevano grucce e giacche come impiccati. C'era quella di mio padre in bella vista. Domani devo ricordarmi di passare a prenderla, pensai. Ferlinghetti stretto al petto, al riparo dalla pioggia. La pioggia più forte. L'unico negozio aperto nella stradina stretta e colorata sotto il diluvio universale era il negozio di CD che mi stava esattamente di fronte, dall'altra parte della strada. Questo era ancora Dove sei, Charlie? Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. We'll be right back. What happened to the Delta I used to know? Where's the spirit? Where's the guts? Huh? This could be the greatest night of our lives. But you're gonna let it be the worst. Oh, we're afraid to go with you, Pluto. We might get in trouble. Well, just kiss my ass from now on! Not me! I'm not gonna take this! Mortimer, he's a dead man! Mortimer!